Quando mamma tutta fatta, quando mamma tutta fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per bastasti carne belle, per bastasti carne belle, tutto quello che mettete, tutto quello che mettete, ci endoro s'ingappucciate, d'indamarte la miscate, latte rosa, rosa e latte, de facette in coppo fatte. E non c'è bisogno di tingere a divina con c'è, come t'ha fatta mamma, tu saccia meglio te. E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro, mamma due san pezzendette, mamma due san pezzendette, bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che ci mettete, vuoi sapere che ci mettete, una miniera sana sana tutta fatta a filagrana, c'è volette per sti trezze che a basa non c'è sta prezzo, e non c'è bisogno di ingra per divina con c'è, come t'ha fatta mamma da possa c'è meglio te.